In collegamento con Tiziana Bartolini, coautrice del libro A Mano Libera, Donne tra prigioni e libertà, che sarà presentato mercoledì 21 febbraio alla Casa Internazionale delle Donne. Tiziana, ben trovata. Salve, buongiorno a voi. Allora, ci racconti un po' di questo libro? Dunque, io e Paola Ortensi da 4 anni andiamo a Rebibbia Femminile per tenere un laboratorio settimanale di dialogo, di conversazione con le detenute che decidono di seguire questa nostra proposta. Gli incontri, diciamo, lo spirito degli incontri è quello di discutere dell'attualità. Noi siamo giornaliste, quindi diciamo, Noi Donne è un giornale storico delle donne, quindi cerca di porre l'attenzione sui fatti che accadono. E facendo questo sollecitiamo naturalmente le persone detenute che vengono a ragionare sull'attualità, a ragionare di politica, dei diritti, della violenza, insomma di tutto quello che accade. È diciamo, un'attività diciamo, che sollecita la cittadinanza attiva delle donne. Da questi incontri scaturiscono naturalmente diciamo, dei focus o nascono diciamo, delle attenzioni particolari intorno a dei fatti che poi noi chiediamo alle persone detenute che vengono di magari sviluppare dei loro ragionamenti e cominciare a scrivere intorno a questi fatti. Naturalmente la scrittura, i testi che vengono scritti poi hanno sempre qualcosa di molto molto personale, diciamo. Diventano ricordi di familiari, ricordi di infanzia, oppure diciamo, spesso ragionano anche intorno alle cause della loro detenzione. Insomma, diventano dei momenti di riflessione. Ecco, finché c'era il giornale cartaceo, noi donne questi testi li pubblicavamo nel cartaceo. Da quando abbiamo dovuto interrompere i cartacei, quindi siamo solo online. Ci è sembrato che questi testi, pur pubblicati online nel nostro sito www.noidonne.org, abbiamo attivato delle pagine dedicate che si chiamano Parole Detenute, insomma avessero bisogno diciamo, di essere fissate sulla carta. E da qui è nata appunto la scelta di pubblicare questo libro che si chiama A Mano Libera e appunto Donne tra prigioni e libertà. Ecco, questa è la genesi, diciamo, di questa pubblicazione. E di particolare c'è che in tutti questi anni ricorreva, no, questa considerazione che hanno fatto varie donne che hanno detto: ma io in carcere ho trovato la libertà, io in prigione ho capito cos'è la libertà. E quindi, insomma, è un'affermazione francamente che colpisce. E così abbiamo sollecitato a scrivere intorno a questo tema, che cos'è la libertà, come la vivi, cioè che significa per te libertà. E quindi sono usciti questi scritti che sono molto molto intensi, naturalmente cose vere, che raccontano esperienze di vita e raccontano anche di diciamo, passaggi, no? Di un'evoluzione di queste donne che durante la detenzione si rendono conto di avere, diciamo, di quello che è stata la loro vita e anche e soprattutto di quello che vogliono fare per cambiarla. Quindi è un libro, un libretto, perché sono 80 pagine, che è molto positivo, ecco, questa è la cosa straordinaria. Ecco, un libro dal quale esce una progettualità, una positività nei confronti appunto della propria vita e della vita in generale che è straordinaria, non te l'aspetti, diciamo. Tiziana, quante sono le donne che partecipano ai vostri incontri, settimanali a Rebibbia? E poi volevo sapere quante hanno poi partecipato alla stesura di questi scritti. Guarda, in 4 anni noi grosso modo sono venute da noi, possiamo dire, tra le 40 e le 50 donne. Sì. Naturalmente si tratta di un pubblico, diciamo, di una partecipazione che è contrassegnata da una certa o discontinuità o anche da Certo. un certo ricambio, perché chiaramente le persone ovviamente escono, vanno ai domiciliari, concludono la pena. Ci sono in questo libro persone che sono, che hanno cominciato a frequentare dall'inizio, quindi sono con noi da 3-4 anni. E quindi questo naturalmente è una, diciamo, un elemento che ci dà grande soddisfazione, perché sapete, quando si fanno queste proposte di laboratori, di qualsiasi, insomma, ad Ebibbia vediamo che c'è tanta proposta di associazioni di volontariato che propongono, voglio dire, dalla lettura al teatro a cose di manualità, a corsi di cucina, veramente c'è di tutto. Però a loro vengono fatte queste proposte e poi sono libere di aderire e di partecipare ai laboratori e anche di partecipare e poi dopo smettere, ecco, cioè non sono obbligate da nessuno, quindi è una scelta individuale. E quindi, ecco, avere questa continuità da parte di molte per noi, insomma, è un motivo di soddisfazione. In questo libro ci sono scritti di 12 di loro. 12 di loro. E sono, tra l'altro, abbiamo anche fatto questa scelta. Ogni testo è firmato alla fine soltanto col nome di battesimo. E insieme ai loro scritti abbiamo chiesto ad altre donne, ad altre amiche, di scrivere una loro riflessione, quindi non detenute, una loro riflessione sulla che cos'è la libertà. E anche questi scritti di donne non detenute sono mischiate dentro a queste riflessioni. Quindi l'intento che avevamo era di mostrare come il femminile, no? Come le donne possono ritrovarsi intorno ad alcuni filoni di ragionamento, intorno appunto alla libertà, come la vivono, a come la sentono, a quello che, diciamo, che possono dire intorno ad una parola che è grande, che è importante, ma che è complessa, no? Ecco, e ci sono, c'è questo incontro, ecco, di donne che sono tutti nomi, per cui molto spesso non si capisce se uno sta leggendo una donna che è detenuta oppure una donna che non è detenuta. Poi in qualche modo si capisce e poi alla fine ci sono delle indicazioni, però avevamo proprio l'obiettivo di promuovere un incontro di donne intorno a questo tema, e che poi è il senso di questo nostro laboratorio, che appunto si chiama Mano Libera e che vuole sollecitare appunto percorsi di presa di coscienza, di presa di sé. Poi ci sono donne di tutte le età, ecco, da ragazze di poco più di 20 anni fino a donne di oltre 60. Per esempio ha partecipato anche una donna che ha seguito i nostri corsi e poi ha finito la sua pena, è andata addirittura poi a vivere all'estero. Siamo in contatto per mail e quindi lei ci ha mandato un suo testo. Quindi ecco, è un po' un lavoro di raccordo di tutto questo vissuto tra quattro mura, che cerchiamo di far uscire appunto questi pensieri, cerchiamo di promuovere questo incontro di idee, di sentimenti, sì, di passioni, di problemi. Insomma, è importante far uscire le parole dal carcere, no? Perché certo, è un discorso di promuovere il vissuto e di far avvicinare il mondo esterno a quella che è la dimensione della detenzione. Della detenzione al femminile, e che cosa di cui si parla poco o niente, insomma. Sì, sì, sì. Allora ricordiamo l'appuntamento 21 febbraio alle ore 17 alla Casa Internazionale delle Donne, presentazione del libro A Mano Libera, Donne tra prigioni e libertà, Tiziana Bartolini con Paola Ortensi, le autrici. Tiziana, un abbraccio, un ringraziamento, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi.